Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché l'hai fatto? Così, tanto per ridere. Che cosa gli hai detto così per ridere? Che suo padre lo picchia sempre, perché è un ubriacone. Fuori. Vai a casa, Franti, via. A casa. Tu sì che sei un'anima nobile. Questo è uno degli esempi più specchiati, più illuminati di maestri. È il maestro del Libro Cuore, uno dei tanti maestri del Libro Cuore, c'è una folta schiera di maestri celebrati, idolatrati, portati sugli altari dal Libro Cuore di Edmondo De Amicis. Io sono nato, allevato col Libro Cuore, ho nel mio DNA i maestri del Libro Cuore. In questo caso è la versione televisiva con Johnny Dorelli. Il maestro, di fronte all'ennesima infamia di Franti, lo prende per un braccio, lo strattona per un braccio, lo caccia fuori dalla classe e dà una carezza sul capoccione del buon Garrone, l'eroe del Libro Cuore, il più buono di tutti, quello che si prende anche la colpa per le malefatte degli altri, quello è talmente buono che prende anche la colpa dei cattivi. Tutto il Libro Cuore è inanellato di figure, di immagini di maestri e comunque, oltre a essere guida illuminata per i loro allievi, hanno con loro contatti costanti, continui, affettuosi. A un certo punto il padre di Enrico, il protagonista del Libro Cuore, lo porta addirittura a trovare il suo vecchio maestro, sto vecchio bianco con il bastone, e si vede che a un certo punto, mentre il vecchio lo rimette sul treno, lo fa ripartire, questo maestro decrepito con un bastonaccio brutto, schifoso, il padre, in un gesto nobile, che era un ricco borghese torinese, dà a lui la sua preziosissima canna con il pomello d'argento e si prende il nodoso bastone del vecchio maestro e fa sentire ad Enrico il caldo della mano del maestro che ancora era rimasto impresso nel manico del bastone. Senti, la mazza del maestro c'è ancora calda dalla sua mano, il nodoso bastone che è un poveraccio il maestro. Per dirvi, c'è una figura immensa della maestrina alla penna rossa che aiuta un bambino a allacciarsi il fiocco, lui è in piedi sul banco e di fronte a lui la maestrina, come può, lo aiuta. C'è un'altra immagine dove il vecchio direttore della scuola con un barbone bianco prende un ragazzo e lo strinse tra le ginocchia, se lo stringe fra le ginocchia l'abbraccia. Ecco, io tutte queste immagini l'ho viste, non ci ho mai visto nulla di male, nulla di morboso, mi sembrava normale. Io avevo una maestra elementare che ci menava con la canna, ancora anno 1960, quindi figuriamoci se mi preoccupavo. Ma pare che in realtà il mondo si sta evolvendo, stiamo avendo delle nuove maniere di gestire anche il rapporto didattico tra un maestro e i propri allievi, e l'argomento di cui volevo oggi porvi una domanda, su cui voglio porvi una domanda e richiedere il vostro parere, è una circolare del dirigente scolastico di un istituto scolastico che è Scuola per l'Infanzia Elementare e Media di Lizzanello con Merine, la De Giorgi si chiama, in provincia di Lecce. La dirigente scolastica ha fatto questo documento che ha fatto anche discutere. Dice, si chiede con la presente, ve lo leggo, a tutto il personale scolastico di evitare qualsiasi forma di contatto fisico con gli alunni e le alunne, come ribadito in varie occasioni a livello generale e individuale. In particolare si ribadisce che non è consentito per nessun motivo toccare ragazzi e ragazze né abbracciandoli, né prendendoli per mano, né baciandoli sulla guancia, questo al fine di tutelare la sicurezza di tutti. L'inosservanza di tale disposizione da parte del personale scolastico comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari. Si confida la vostra collaborazione alla dirigente scolastica Bruna Morena. Abbiamo chiamato, mi sembra, la sua vice, che poi ha detto che non hanno nulla da dire, loro sono per un orientamento su modello anglosassone, i ragazzi non si toccano. In linea di principio può funzionare, pare che i genitori su questo siano anche d'accordo, perché siano stati loro, poi adesso entreremo nello specifico, chiederemo a chiedere questo provvedimento. Però viene da fare una serie di domande. Perché non posso nemmeno, non so, dare una carezza, prendere per mano un bambino, che non ci trovo nulla di male, la maestra prende la fila indiana dei bambini, li accompagna tutti a mensa, li accompagna tutti a ricreazione, oppure arriva la bambina, signora maestra, buongiorno, le ho portato una mela, brava, e gli dà un bacetto alla bambina. Rientriamo in una normale gestione dei rapporti fra maestro e bambina. Poi con questo divieto significa che viene data un'accezione morbosa a questi contatti, quindi per non sbagliare nessuno tocchi i bambini. Quindi cosa accade? Faccio un'ipotesi, poi verrà confermata. Il bambino si avvicina alla maestra, signora maestra, buongiorno. E lei dice, no, non mi toccare, stai a 20 centimetri di distanza. Oppure, non so, saluta un bambinello un po' più cresciuto, magari si avvicina al maestro per dirgli, le do la mano per salutarla a fine d'anno. Dice, no, non ti posso dare la mano perché non te la posso dare. La motivazione pare sia per motivi igienici. Per motivi igienici non si dà la mano, ma è per motivi igienici. Dovrei mettermi i guanti da chirurgo anche per entrare qui e dare la mano a Fabrizio Intonti, perché vale la stessa. Dice, sono bambini. Va bene, può essere, sono bambini, quindi bisogna tenere una certa distanza. Ma dobbiamo come inglobarli in una sorta di sacchetto igienico per tenere a distanza dagli adulti? Può essere questa la motivazione. Voi come la vedete? Come la pensate? Questa circolare ha un senso, ha un nesso, onde evitare problemi a priori. Ma quali sono i problemi? Che alcuni insegnanti si approfittino in maniera disonesta del corpo dei propri alunni? Potrebbe essere questa l'ipotesi. Per non sbagliare nessuno li tocca, quindi siamo ben contenti che nessuno mette le mani addosso ai figli, i genitori sono più contenti. Oppure, altra ipotesi, ci sono stati episodi comunque in altre scuole di insegnanti, accade ogni tanto, si vede, insegnanti, professori di ginnastica, allenatori di sport, addetti alle parrocchie, agli oratori, succede di tutto. Questo è normale, accade, è nella prassi gli episodi che possono accadere, e in questo caso si ha un'operazione preventiva, nessuno tocchi, proibizionismo, come a Teheran, se una donna va per strada e scopre magari un lembo di calzino, viene presa a staffilate a sangue per strada, come vi ho fatto ascoltare il giorno dell'8 marzo. Accade in questa scuola, cosa avviene? Si viene frustato il maestro nel cortile della ricreazione se soltanto sfiora un bambino? È ammesso e non concesso che in una scuola ci sono maestri che hanno in realtà delle turbe così profonde da approfittarsi dei propri alunni? Secondo voi lo fanno pubblicamente, apertamente, dando la mano a un bambino davanti a tutti, o non trovano, diciamo, uno spazio emotivo scellerato in cui abusare di questi bambini? Quindi probabilmente la risposta dovrebbe essere una maggiore sorveglianza, una maggiore attenzione. Beh, 800 24 00 24, vi ho posto la domanda, è un caso piuttosto singolare, piuttosto complesso. Mi aspetto di sapere da voi più in generale come vedete oggi un moderno rapporto fra docente e alunno, se in realtà sono i genitori molte volte a denunciare un'eccessiva confidenza che, alla luce della civilizzazione che stiamo vivendo, non ha più senso fra maestre, maestri e alunni, o pensate che questo sia un metodo concreto, reale e utile a prevenire episodi di molestia sessuale nei confronti dei bambini. Franco Lorenzoni, buongiorno. Buongiorno. Franco Lorenzoni ha ascoltato la mia introduzione, è un maestro di scuola elementare, coordinatore della casa laboratorio di Cenci. Lei, rispetto a questo episodio, qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è drastico, nel senso che penso che sia una circolare terrificante, veramente orribile. Cioè, noi abbiamo ormai un'idea per cui i bambini non devono vivere, non so, come protetti da una iperprotezione sanitaria, medicalizzata quasi il rapporto. Io per esempio quest'anno insegno una prima elementare, e la cosa più normale è che i bambini quando arrivano la mattina li abbracciano, si abbracciano tra loro, ci abbracciamo, continuamente facciamo giochi in cui toccarsi è parte fondamentale del conoscere. Io, guardi, posso dire una cosa, ho fatto anche la scuola dei preti, quindi so esattamente qual è il tocco fastidioso e il tocco che nemmeno uno ci fa caso, quindi lo sa esattamente. Secondo me, se esiste da parte dell'insegnante, e nella casistica può anche esistere, qualcosa che non funzioni, non è certo dicendo non dai la mano al bambino, non lo abbracciare, che preserva il bambino e salva il bambino, o mi sbaglio? No, poi secondo me è ancora più grave, cioè noi stiamo facendo un'educazione alla paranoia. Penso che una scuola di questo genere proietta verso i bambini un'immagine del mondo in cui l'altro è sempre un nemico, un potenziale nemico. Cioè, i bambini che verranno su con l'idea che gli adulti non ti possono toccare, che è anche giusto, ma anche a me lo insegnavano. No, non ti far mettere mai le mani addosso agli sconosciuti. Ma è un'altra cosa. È un altro discorso. L'affettività, cioè, diciamo, non so, io sarò figlio di una generazione, io mi ricordo il libro su cui mi sono maggiormente formato si chiamava A scuola con il corpo, del movimento di cooperazione educativa, che ancora adesso, diciamo, è un movimento che lavora perché nella scuola l'affettività sia il centro, diciamo, del... Noi sappiamo che come dire, che non qualsiasi pensiero nasce dall'emozione, e le emozioni sono legate al corpo. Ma secondo me una carezza sulla testa a un bambino, a un maestro, non credo che sia quello il problema, però una circolare così drastica indubbiamente argomento. Sì, ma esiste un metodo anglosassone? Anche... Perché ci hanno detto alla scuola, ci hanno detto questo è il metodo anglosassone, sono semplicemente ridicolo dire metodo anglosassone. Il problema vero è che noi abbiamo dei genitori e anche insegnanti, evidentemente, anche dirigenti, che ormai sono presi da un'idea panica della relazione interpersonale. Cioè, perché allora i bambini cosa dovrebbero? Non toccare più nulla, non uscire per strada. Fare la scuola online, se la fanno a casa loro con la webcam. Alla fine l'unica è che ognuno sta da solo davanti a uno schermo. Fermiamoci un attimo, scusi, Giorgio, buongiorno, anche lui è un insegnante. Prime telefonate 800 24 00 24. Cosa ne pensate dell'idea che possa essere esteso il principio a tutte le nostre scuole, che gli insegnanti verranno puniti se danno una carezza, toccano sulla nuca, danno la mano al bambino, in qualche maniera lo abbracciano? Perché è qualcosa che non fa più parte dell'insegnamento contemporaneo, ma è scuola anglosassone, come ci hanno risposto appunto il personale dirigente dell'istituto scolastico della provincia di Lecce, che ha emanato questa circolare. Giorgio, buongiorno. Scusi. Buongiorno. Sì. Giustissime le parole di chi mi ha preceduto. Io sono insegnante invece di scuola media, ho insegnato fino a 3 anni fa, a quest'ora dovrei essere veramente in galera tra Nocchini, Ganascini, Carezzine, che ho distribuito in tutta la mia carriera, tra l'altro un po' sull'esempio del mio maestro delle elementari, perché in parte poi ho riportato. No, ma a me mi venivano proprio le elementari, non è ma lui no. Beh, ero un vecchio io. Erano sempre leggeri, affettuosi. Sì, ma diciamo il tocco, nel senso, dare la mano a un ragazzo, le scuole medie anche più, quando saluto un ragazzo gli dà la mano, l'ultimo giorno di scuola, sì. Quando non si vuole congratulare, avere ecco, questa sorta di... Io ho avuto più ritegno con le ragazzine, è chiaro, sarebbe brutto, ma è giusto, mi sembra giusto. Ecco, ma io ritengo però che sia questa circolare sia fortemente sospetta di essere illegittima, perché mi sembra che restringa proprio anche tutto il comportamento illegittimamente, poi anche in un certo senso una libertà di stile di insegnamento, no? Perché poi può avere anche un effetto relazionale positivo un maestro, un insegnante che ogni tanto, non so, ti prende da dietro, ti fa il massaggino sulle corde qui delle spalle o cose di questo genere. Adesso andiamo troppo oltre, poi vediamo, poi no, insegnante ti prende da dietro, sì. Insomma, omnia munda mundis, no? Sì, sì, ma chiaro, questo è, infatti, io ho descritto questa mattina le immagini del libro Cuore, dipende come uno le guarda, se uno guarda con occhio malizioso, ma tutto, anche un insegnante che ti sorride può essere visto con sospetto, dipende da come lo vedi te, anche uno che ti guarda in una certa maniera, allora bisognerebbe dire non guardare fissi i ragazzi, non inseguirli con lo sguardo, uno sguardo insistente può essere molto più fastidioso, intrigante e lesivo di una persona che ti dà la mano. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Non so se me la ricordo tutta. Non ti preoccupare, se ti fermi ci sono io. Vai. È fosco l'aere. È fosco l'aere. Il cielo è bruno, è muto. Ed io sul tacito verrò seduto. In solitaria malinconia ti guarda il lacrimo Venezia mia. Fra i rotti nugoli dell'occidente il raggio perdesi del sol morente. È mesto sibila della laguna, nell'aria bruna, l'ultimo gemito della laguna. Passa una gondola della città. Ehi, della gondola, qual novità? Il morbo in furia e il pancia manca. Cioè, questa è la versione edulcorata. Io non me la ricordo questo passaggio. Voi dite, magari forse è un mio difetto di memoria. Qua è sempre nel film del libro Cuore. Teresa De Sio, che è la maestra, abbraccia Franti, che sta cercando di recitare la poesia, una sorta di redenzione di Franti, che io sinceramente non mi ricordo. Può essere che ci sia, ma mi sembra un po' strano. Beh, redimendolo, comunque lo abbraccia. E Franti, se Ecco l'infame che si pensa ne approfitterà, quindi questo è probabilmente il rovescio della medaglia. Stiamo parlando della notizia data questa mattina da redattore sociale di una scuola elementare media e per l'infanzia in provincia di Lecce, che ha fatto una circolare in cui viene proibito agli insegnanti di toccare i ragazzi, pena sanzioni. Cosa ne pensa Antonino? Buongiorno. Buongiorno, sì. Nicoletti, allora cosa ne penso io? Tommaso A. Kempis ha scritto un libro, The Imitation of Christ, Imitazione di Cristo. In questo libro scrive: la gente parla con ciò che sovrabbonda dal cuore. Questa circolare mi induce a pensare che chi l'ha emessa abbia certi pensieri. Quindi non sono io malizioso, probabilmente lo è chi ha fatto la circolare. Beh, ma magari diciamo una visione molto molto rigida dei rapporti. Guarda, abbiamo avuto periodi in cui era regolare, le persone non si toccavano, non si sfioravano, veniva considerato come qualcosa. Nicoletti, se una maestra o un maestro fa una carezza a un bambino o una bambina per premiarlo di una sua azione buona oppure di una sua riuscita, come può essere sospettato d'essere un pedofilo o un corruttore? Soltanto chi ha emesso la circolare lo può pensare, e lo pensa perché probabilmente l'ha pensato lei. Senza entrare, diciamo, nessuno fa accusa a nessuno, lei dice comunque c'è una sorta di ossessione per l'atto illecito, così questo previene ogni atto illecito. È come mettere il chador alle donne, si coprono completamente, quindi non sono occasione di pensieri illeciti per gli uomini, quindi si evita il contatto fra insegnante e bambini perché si presuppone che possa esistere una percentuale di insegnanti che abbia pensieri illeciti. Mario, buongiorno. O le maestre dove sono finite? Tutti maestri, siamo un popolo di maestri, sono contento. Mario. Sono un insegnante, un professore. Sì, professore. Ho insegnato dai miei 18 anni, ero diplomato. Come la vede lei questa circolare? Fino ai 65, 47 anni ho insegnato. La circolare è folle semplicemente, definitiva folle è poco, perché il contatto fisico con i ragazzi che io ho avuto spesso, nel senso di non tanto carezze ma dar la mano, una pacca sulla spalla, il buffetto sulla guancia, oppure anche soltanto veramente rincuorare la ragazzina che non arrivava in prima media, non arriva neanche. Quindi qualcosa fa parte della didattica. Ma assolutamente sì, io ritengo che sia una mostruosità dovuta ai tempi che impediscono, per esempio nelle scuole, ho visto in una scuola media non una mamma con un bambino in braccio che non ha potuto entrare perché non era assicurata, voglio dire, il bambino non era assicurato, in questo caso qui roba da folle, no? Beh, però sono leggi, però leggi sulla sicurezza. Per l'amor di Dio. Chi si prende la responsabilità di andare contro la legge? Oggi, diciamo, grazie a Dio c'è più sicurezza, scuole che avevano le rampe delle scale aperte le hanno chiuse, avevano finestre ad altezza non necessaria, hanno dovuto mettere una balaustra. Sulle norme di sicurezza io mi sentirei di difenderle comunque. Perché... Per l'amor di Dio. Però questa è una cosa. Ecco, finalmente, no, scusi, Silvana, se no sembra che siamo tutti maestri. Silvana, buongiorno. Grazie. Ciao, buongiorno. Ecco, io sono mamma di 4 bimbi e penso che questa circolare sia allucinante. Io credo che questa direttrice non abbia assolutamente figli, perché tra l'altro è direttrice di una scuola dell'infanzia, quindi sa benissimo cosa vuol dire per noi mamme. Anche elementare media, figli. Anche elementare media. Adesso però non voglio, scusate, siccome non è presente, non voglio. Parliamo in astratto dell'idea, non conosciamo la situazione. Secondo me il contatto fisico è anche un diverso modo di parlare tante volte. Quindi penso che lì sia lesivo per i bambini questa circolare, soltanto questo. Grazie Silvana. Allora ritorniamo con Franco Lorenzoni, maestro di scuola elementare ma coordinatore della casa laboratorio di Cenci. Mi sembra che in questa rapida rassegna di telefonate che sono arrivate così, non è che le selezioniamo per dare un senso ideologico alla trasmissione, non ce n'è stata una che ha detto: beh, finalmente qualcuno che pensa alla salvaguardia morale dei nostri figli. Questo dovrebbe farci riflettere che in fondo non siamo proprio così anglosassoni, ammesso e non concesso che sia questa linea anglosassone. Franco Lorenzoni. No, io, a parte che non credo che nemmeno gli anglosassoni pensino questo, ma comunque mi veniva in mente un particolare. Ci sono tanti momenti in cui i bambini hanno proprio bisogno di essere presi in braccio, anche bambini grandi, anche bambini di quarta, quinta elementare, penso persino alle medie. Beh, c'è un momento di sconforto, di solitudine. No, ma preso in braccio nel senso che tu sei seduto e lui ti viene incontro. questo lo fanno le maestre, lo fanno le professoresse, i maestri, eccetera. C'è un momento in cui, certamente, diciamo, c'è un problema di delicatezza rispetto, chiaro, una crescita, diciamo, di una ragazzina, e se un maestro è maschio o viceversa, ci può essere un'attenzione particolare. Sì, diciamo che oggi abbiamo episodi di ragazzine di 12 anni che si sono andate a prostituire per comprarsi le scarpe, quindi esiste anche una maturità abbastanza accelerata. No, ma questo invece è una scuola che impedisce le esperienze, non aiuta affatto a prevenire quello, è il contrario. Se tu non hai un'esperienza aperta, libera, col proprio corpo, poi forse può riflettere maggiormente perché va preservato. Non può essere anche, mi scusi, voglio fare fino in ultimo il quadro. Sono esistiti casi, ci sono stati casi anche non recentissimi, di scuole intere dove sono stati messi in croce insegnanti, mariti degli insegnanti, sono stati arrestati, accusati di infamia, di pedofilia, poi tutto si è risolto in una sorta di isteria collettiva. Non è così, gli insegnanti si mettono al sicuro, dicendo così stiamo tranquilli che nessun genitore ci dirà mai ha messo le mani addosso mio figlio, che molte volte, sa, esistono anche dei fenomeni molto singolari e strani di proiezione di genitori nei confronti dei figli, e l'abuso, quando non è dimostrabile, diventa, ahimè, una mannaia che non si libera più dalla persona innocente che è stata accusata di questo. Certo, c'è questo problema. Per esempio Rignano Flaminio è a quello il caso che volevo fare. A mio avviso è stato un caso di paranoia collettiva, insomma. Questo ha detto il tribunale, sì. Certo. Sono stati sottoposti questi bambini i cui genitori avevano paura di quello che era successo, che sono inventato, ha degli interrogatori incredibili. Cioè, io vorrei riflettere un po' su noi adulti, non sui bambini. Cioè, noi che immagine abbiamo dell'infanzia, della crescita, dell'esperienza, delle relazioni? Questa è una bella domanda che meriterebbe molto più tempo per rispondere, ma ce lo prenderemo in un'altra occasione. Grazie Franco Lorenzon, grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti.